Yeah, happy Tom. E come annunciato, siamo in diretta. Pronto, ci senti? Sì, sì, mi sento benissimo. Eccoci qua, stiamo al telefono con Daniele Nalbone, che oltre ad essere un giornalista di Liberazione, anche uno degli autori di questo libro di cui andiamo a parlare, Le mani sulla città, da Veltroni ad Alemanno, storia di una capitale in vendita, che hai un lavoro fatto con Paolo Berdini, un lavoro di cui andiamo appunto a parlare nei prossimi minuti qua dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Intanto la prima domanda, quasi scontata, viene dal titolo, da Veltroni ad Alemanno. Quello di cui te parli, soprattutto nell'introduzione, poi nei capitoli, nei primi capitoli, è proprio la grossa continuità su dei modelli delle due amministrazioni. Sì, il senso è proprio quello che abbiamo cercato di dare. Più che la continuità dei due modelli di amministrazione, è proprio la subordinazione di qualsiasi classe politica, di qualsiasi colore, ai poteri forti che di fatto governano Roma. Il tentativo di ragionamento sul quale ci siamo appunto da quale siamo partiti è un ragionamento che ci ha consegnato Alemanno durante gli Stati Generali. Alemanno e il Partito Democratico in risposta. Un breve aneddoto: quando Alemanno presentò agli Stati Generali a febbraio il piano strategico di sviluppo di Roma verso le Olimpiadi del 2020, disse tranquillamente dal palco: molti di questi progetti li abbiamo ereditati dalla giunta precedente. La risposta del PD per attaccare Alemanno su quegli Stati Generali non è stata nel merito di quei progetti, ma è stata: hanno soltanto presentato i nostri progetti. Ecco, in queste due frasi, in queste due trovate c'è tutto il ragionamento che noi abbiamo sviluppato. Vedere Ostia, vedere l'Eur, vedere Fiumicino non cambia il colore, non cambia il colore politico, non cambia la giunta. L'unica vetrina fatta da Alemanno e partorita da Alemanno in questo scenario è la vetrina di Torbella Monaca, quel mega progetto devastante di abbattimento e ricostruzione di un intero quartiere. Ecco, l'unica discontinuità fra le due amministrazioni è quella. Mentre Alemanno puntava su una vetrina fatta di luci, paillette, di notti bianche, Alemanno punta su una vetrina fatta di abbattimento e ricostruzione dei quartieri popolari. Questa è l'unica differenza. Secondo me una differenza sta che comunque l'amministrazione Alemanno prova a costruire comunque sulle speculazioni, su una serie di operazioni enormi fatte di speculazioni, di regali alla rendita fondiaria, eccetera, prova a costruire un terreno di consenso che si poteva tradurre in più cultura in cambio di più cemento, mettendola alle strette. E aveva un modello di governance che poi per una serie di anni ha anche funzionato in questa città. Quello che sembra di Alemanno, forse perché governa in tempi di crisi più acuta, è che proprio invece il modello di governance di Alemanno sia basato invece proprio su una rapacità enorme anche degli stessi apparati dell'amministrazione. Vediamo gli scandali e quello che ci ha girato attorno. Sì, guarda, il ragionamento è assolutamente esatto. Io nella mia analisi disposto nuovamente la lente, la metto sugli imprenditori, sulla classe dirigente a livello di economia che sta governando Roma. Quello a cui abbiamo assistito è un cambio di interessi, proprio perché in tempi di crisi. Mentre sotto Veltroni c'era comunque una logica anche di pianificazione della speculazione, passatemi il termine, vediamo le opere sui megaquartieri come Bufalotta, come Ponte di Nona, dove comunque c'è stato un tentativo fallito di creare dei luoghi in cui far crescere nuove città a livello territoriale e anche di crearci consenso, un'immagine attorno a questo, no? Cioè, ad esempio, Bufalotta è un quartiere per le nuove classi medie, non è l'operazione appunto delle giunte di centrosinistra degli anni Ottanta come appunto Pietra e come Torbella Monaca, eccetera. Esattamente, proprio questo. La differenza con Alemanno, secondo me, è dovuta proprio al cambio di interessi dei poteri forti. Cioè, lì è stato detto: in questo momento di grande crisi serve poter fare opere di finanziarizzazione del territorio. Questa è l'unica cosa che porta a rendita determinate aree. Per questo non viene più scelto di creare nuovi quartieri all'estrema periferia di Roma, bensì di liberare aree anche nel cuore della città. L'esempio che noi portiamo nel libro è quello delle ex torri delle finanze del laghetto dell'Eur, che per tutti i romani sono in via di costruzione, in realtà le stanno smontando. Quegli scheletri che vediamo è il tentativo di smontare quelle torri, con un iter piuttosto discutibile che noi abbiamo analizzato nel libro. Il senso è proprio questo: liberare aree di pregio anche all'interno del centro storico, o comunque delle zone più di pregio di Roma, per far sì che possa svilupparsi una speculazione da alti livelli, una speculazione che più da signori del cemento e dai signori delle banche e da grandi gruppi finanziari che hanno bisogno di riportare nelle loro casse anche un patrimonio di grande valore. Un esempio per tutti: dentro la speculazione delle torri delle finanze ci sono enti come Enasarco che, mentre vendono le case dove vive la gente, acquistano immobili di lusso perché aumentano così la possibilità di farci rendita. Sì. Poi c'è anche un articolo, no, c'è l'articolo di Bertini che un po' prova, che parla appunto del governo delle emergenze. Scusate, del governo straordinario, che vuol dire semplicemente che, no, che si sostituisce e qua, insomma, risale alla prima giunta Rutelli, a proposito di Roma, no? Berdini, quando dice che appunto all'inizio, il primo quinquennio in qualche modo degli anni 90 sono stati gli anni della distruzione di ogni strumento di regolazione urbanistico vincolante, veramente vincolante, nello sviluppo di una città, e da lì in poi si è stati preda, in particolare una città come Roma, con un capitalismo, ce lo possiamo dire, anche un po' straccione, basato soltanto sul mattone, sulla speculazione fondiaria, e da quel momento in poi non c'è stato più argine e le giunte, qualsiasi colore, sono state sotto l'assedio e la pressione continua dei costruttori, a cui hanno sempre ceduto. Ormai dal 93 oggi i risultati, insomma, sono quelli della città in espansione che vediamo. Ma quali sono questi famosi poteri forti che, appunto, perché sennò sembra che parliamo sempre di qualcosa, che questi poteri forti non sono qualcosa di tangibile e di vero, quando invece sono interessi concreti, chiamati anche con nomi e cognomi, ma sembra chissà quale, no, quale cosa complottistica di cui uno sta parlando. Invece nel tuo libro vengono nominati uno per uno. Sì, guarda, vengono nominati, ma senza aver fatto chissà quale lavoro di inchiesta. Siamo molto onesti in questo. Noi ci siamo veramente, appunto, affidati... per questo bastava la rassegna, esatto, stampa per scoprirle. Esattamente. Ci siamo veramente affidati a ciò che ci ha consegnato in mano il sindaco durante gli stati generali. Ovviamente poi siamo andati a vedere quali sono poi tutti i singoli interessi, dove si muoveranno questi poteri, però per capire quello che accadrà a Roma verso il 2020 è quasi sufficiente guardare il Comitato Olimpico, che comporrà, appunto, che cercherà di conquistare le Olimpiadi del 2020. Un comitato olimpico che non ha atleti, non ha uomini di sport, non ha nulla che noi possiamo collegare direttamente a un'Olimpiade. Cioè, dentro il comitato olimpico c'è Luigi Abete, che è presidente BNL, c'è Azzurra Caltagirone, che ovviamente sappiamo tutti essere non solo figlia di Caltagirone, ma anche la moglie di Pier Ferdinando Casini. C'è Aurelio De Laurentiis, c'è Montezemolo, c'è John Elkann, c'è Geronzi, c'è Malagò, cioè c'è tutta la classe dirigente italiana e non solo romana. Cioè, quello che sta avvenendo adesso è l'applicazione di una teoria che va avanti da qualche anno, cioè la teoria di instaurare una nuova governance sul territorio nazionale, una governance che sia quella delle grandi opere, i cui risultati li stiamo vedendo in Val di Susa, tanto per intenderci, rischiamo di vederli a Messina sul ponte, e una governance dei grandi eventi. Cioè, quello che potrà subire Roma verso il 2020 è quello che subirà il paese: Expo 2015 di Milano, il Forum delle Culture di Napoli, i vari grandi eventi in programma. Cioè, addirittura in una delle ultime interviste Aurelio Regina, di un'industria, quindi Confindustria applicata alla Regione Lazio, ha già detto che le Olimpiadi del 2020 devono essere collegate col Giubileo 2025, ma collegate come infrastrutture, come opere di speculazione. E la cosa più significativa è l'aeroporto di Fiumicino in questo scenario. L'aeroporto di Fiumicino, che per tutti è stato detto agli stati generali necessario per le Olimpiadi, salvo che i lavori per l'aeroporto di Fiumicino inizieranno nel 2012, ma non termineranno prima del 2050. Quindi non avrà alcun senso, non ha alcun senso dire che quell'aeroporto serve per le Olimpiadi se poi quell'aeroporto sarà consegnato 30 anni dopo la fine delle Olimpiadi. Parliamo un po' anche appunto di questa grande cartolina che sono le Olimpiadi. Voi spiegate bene perché porta soldi fare le Olimpiadi, a cosa serve fare le Olimpiadi, che non è una questione semplicemente di vetrina, no? Di successo della città, ma un po' quello che stiamo vedendo al no, su quanto riguarda l'Expo a Milano. In realtà, la cosa, diciamo, grossa, che sono le Olimpiadi, sia in qualche modo che va in porto, sia no, è una grossa eredità, una grossa eredità di investimenti che rimane dietro le Olimpiadi, di attrattiva di investimenti, anche di salto di qualità anche di questi investimenti. Se pensiamo anche agli ultimi eventi, che ci sono stati nelle Olimpiadi in giro per il mondo, a cominciare da Pechino. Sì, il senso è proprio quello. Noi portiamo due esempi per spiegare il motivo per cui Roma ha deciso di dare la propria disponibilità ad ospitare le Olimpiadi del 2020. I primi numeri che portiamo sono quelli di Esperienza Italia 150, quindi dei festeggiamenti in corso a Torino per il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Ebbene, quando noi siamo andati ad analizzare cosa significa Esperienza Italia, si è scoperto che Esperienza Italia costerà alla fine una cifra intorno a 60 milioni di euro messi a disposizione dalle comunità locali del Piemonte, quindi, e 140 milioni di euro in opere pubbliche che sono state inaugurate per l'evento. Ebbene, fra le opere pubbliche c'è la riqualificazione delle aree limitrofe a Parco Doria, era una parte industriale. Ebbene, il calcolo che è stato fatto dal Comitato per il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia è stato quello che, in base a queste opere di riqualificazione, se il valore immobiliare delle aree circostanti fosse aumentato anche solo del 10%, quando sappiamo che un calcolo approssimativo potrebbe essere fra il 30 e il 40%, ma noi ci siamo attenuti al dato del 10%, il valore delle aree immobiliari passerebbe da 2.000 a 2.200 euro al metro quadro. Questo significherebbe far aumentare il valore dello stock immobiliare intorno a quell'opera di circa 1 miliardo di euro. Questo semplicemente consegnando quindi soldi alla rendita, null'altro. Il motivo poi che abbiamo comunque analizzato per cui Roma ha deciso di correre alle Olimpiadi del 2020 lo abbiamo capito analizzando un testo di un docente universitario della California, Andrew Rose, che ha studiato il cosiddetto effetto Olimpiade. Ebbene, lui calcola che dopo un'Olimpiade le esportazioni dei paesi che decidono di candidarsi alle Olimpiadi aumenta in modo consistente e duraturo, cioè praticamente basta dire di essere pronti a organizzare un'Olimpiade nel gota dell'imprenditoria internazionale, perché gli introiti di quei paesi possono aumentare solo già del 30%. Il dato che noi abbiamo preso è quelli di Pechino, quelli di Barcellona, cioè il fatto che dichiarare la propria disponibilità ad ospitare un grande evento significa aprire nuovi spazi commerciali. Un esempio, l'Olimpiade di Pechino, che sarà assegnata in luglio del 2001, ebbene, 2 mesi dopo la Cina concluse un negoziato con l'Organizzazione Mondiale del Commercio, liberalizzando i suoi scambi. E non è un Questo caso, significa infatti, organizzare. che nomi illustri della politica, ma soprattutto della finanza e dell'economia nostrana e cittadina, hanno proprio fatto una fondazione per caldeggiare questa Esattamente. candidatura. E sappiamo che fare una fondazione non è come fondare, diciamo, un'associazione. Fare una fondazione vuol dire investire qualche decina di migliaia di euro in questa fondazione. Sì, il senso proprio della fondazione è questo, far capire all'estero che Roma e l'Italia è pronta a cambiare il proprio modello di sviluppo. Cioè Roma in particolare è sempre stata un po' la capitale del mattone, questa è l'economia trainante, la capitale proprio a livello storico. Bene, ora Roma si prepara a fare un salto di qualità, a diventare anche una capitale degli imperi finanziari. Non è un caso che a Roma si sta riunendo ormai da 2 anni l'IBAC. Non è un caso che il 7 luglio a Roma per la prima volta le grandi gruppi tipo Camera di Commercio, Confesercenti, eccetera, sono stati chiamati in raccolta da Compagnia delle Opere per discutere del futuro della capitale. Non è un caso che a Roma siano sbarcate le banche, che mentre di solito avevano gli interessi a finanziare le speculazioni proprio del cemento, oggi diventano proprietarie di quelle speculazioni. Cioè mettono anche loro stessi a rendita la loro quota di speculazione dentro al cemento. Questo è un po' un riassetto che è in fieri, quindi è anche difficile analizzare, lo capiremo nei prossimi anni dove porterà. Ok, io ti chiedo di rimanere un attimo in linea, sentirei un po' di musica perché ci andiamo a collegare con, col comitato di Tor Bella Monaco, cui continuiamo a parlare con te di questa Roma di Alemanno. Ok? Perfetto. Grazie. Aspetta un attimo. Sì, sì. Niente, i problemi tecnici ci perseguitano durante questa diretta. Ci abbiamo la seconda linea in questo momento fuori uso. Io ti chiederei di andare a parlare a questo punto con te di Tor Bella Monaca, di quello che è stato uno dei più grandi spot lanciati da questa amministrazione. Sì, praticamente noi abbiamo proprio inserito Tor Bella Monaca a chiusura dei quattro focus territoriali che abbiamo fatto spiegando cosa significhi le mani sulla città oggi. Abbiamo parlato inizialmente di Fiumicino, poi di Ostia, quindi dell'Eur, e Tor Bella Monaca lo abbiamo proprio messo come vetrina, perché questo è quello che sta facendo Alemanno su quel quartiere. Un quartiere che è destinato non soltanto a una densificazione di popolazione che la raddoppierà di fatto, ma che è destinato a raddoppiare anche le aree di suolo che verranno occupate dagli edifici. Quindi un po' il gioco che noi abbiamo fatto, la prima battuta che abbiamo inserito nel libro è: non si può parlare di abbattimento e ricostruzione, ma si deve parlare di abbattimento, ricostruzione e cementificazione del doppio delle aree. Quindi già semplicemente parlare i linguaggi che vengono utilizzati, bisogna starci molto molto attenti. Poi il discorso che abbiamo fatto è molto semplice, grazie all'aiuto di Andrea Schiavone, che è un urbanista del Comitato Labur, siamo entrati proprio nelle maglie di quel progetto. È un capitolo pieno anche di numeri, di dati, abbiamo voluto proprio far capire cosa significa economicamente decidere di abbattere e ricostruire un intero quartiere. Ora, senza annoiarvi con i numeri, poi alla fine è quasi necessario averli sotto mano per comprenderli, arriva un po' al sunto, il senso dell'intera operazione. Il senso dell'intera operazione è stata scoperta non da giornalisti d'inchiesta, ma è stata scoperta dai cittadini di Tor Bella Monaca, che si sono fatti una semplicissima domanda: per quale motivo, ora che mi stanno costruendo la metropolitana sotto casa, perché questo è il senso che ci sarà a Tor Bella Monaca, cioè fra qualche anno ci sarà la metropolitana che arriverà proprio a Tor Bella Monaca, perché mi devono spostare anche di 500 metri, farmi abitare a 500 metri da quella che finalmente è una mezzo di trasporto sostenibile che mi permetterà di arrivare al centro in pochi minuti, per liberare quei territori e farci arrivare a vivere gente che comprerà sul mercato quelle case? Ecco, questa qui è la domanda, ed non è una domanda che abbiamo fatto noi, ma una domanda che ci hanno fatto i cittadini. Ebbene, noi come giornalisti abbiamo potuto rispondere solo in un modo, andando a vedere le maglie del progetto. Ebbene, è un progetto che non soltanto non è coperto economicamente, quindi bisogna già dire questo, non ci sono praticamente i soldi per farlo. Quando si parla di project financing si dice qualcosa di anche bello, anche affascinante, ma qualcosa di falso, perché le opere in project financing di Roma, che sono già state iniziate in tutta la città, i privati hanno coperto soltanto una cifra fra il 5 e il 10% dei finanziamenti che dovevano dare per quelle opere. Cioè, i soldi che vengono messi sono tutti soldi pubblici, i privati li metteranno solo se penseranno che sarà conveniente mettere quei soldi. Cioè, quindi i privati sono, come dire, in balcone, aspettano che il pubblico faccia gli atti giusti affinché loro possano subentrare. Ebbene, a Tor Bella Monaca gli atti giusti si chiama spostare quegli abitanti lontani dalle zone più di pregio e liberare le aree di maggior pregio all'interno del quartiere. questa è l'operazione Torbella Monaca a grandi linee. No, anche perché l'operazione Torbella Monaca invece viene spacciata come un'operazione in qualche modo a misura d'uomo. Cioè, l'operazione anche che viene spacciata come operazione culturale urbanistica è: prendiamo un quartiere degradato, prendiamo un quartiere difficile, prendiamo un quartiere con problemi di servizi, prendiamo un quartiere con una grossa concentrazione, no? Anche di disagi, di problemi, e tramite una trasformazione urbanistica, no? C'è Alemanno che ha parlato, no? Di una nuova garbatella, no? Dei cortili, della città a misura d'uomo, rendiamo di nuovo questo territorio vivibile. La realtà è che anche ci sta un problema, come dicevi te, legato anche alla valorizzazione di un territorio su cui si sta avvicinando alla metropolitana. Esattamente. Quello lì è proprio il senso del valore immobiliare. Ci sono varie domande alle quali l'amministrazione Alemanno non ha mai risposto. Una molto semplice: perché cominciare da Torbella Monaca, ad esempio, non da Corviale? Stando per qualcuno la bontà dell'idea abbattere e ricostruire. Perché Torbella Monaca? Perché fra tutti i comparti di Torbella Monaca partire dal comparto più vicino alla metropolitana, che non è neanche quello in peggiori condizioni? Poi si parla di abbattere le torri. Ebbene, perché insieme alle torri vengono abbattute anche 15 palazzine di 4 piani, le cosiddette palazzine in fila, se sono le torri da riqualificare? Altre domande sono: per quale motivo non si riqualificano gli stabili che già esistono, tra l'altro pubblici? La domanda è questa: perché non si riqualificano gli spazi esistenti? C'è un mercato abbandonato da 10 anni, perché non ridare al quartiere un mercato? I ragazzini piccoli, gli infanti del quartiere non hanno asili, perché non riaprire asili nido e centri di socializzazione all'interno del quartiere? Cioè, sono tante domande alle quali Alemanno non ha mai risposto. Le uniche domande a cui ha risposto sono state forse quelle degli imprenditori nel tentativo di convincerli ad investire in quel progetto. Un'ultima cosa: noi siamo andati a vedere i soldi già stanziati per il primo lotto di abbattimento e ricostruzione, quello che abbiamo detto più vicino alla metropolitana. Ebbene, quel lotto è stato finanziato proprio soltanto per la cifra necessaria ad abbattere e ricostruire. La domanda è: ma riqualificare? Cioè, gli asili con quali soldi verranno fatti? Le strade, la manutenzione fognaria con quali soldi verranno fatti se non sono stati stanziati? Allora, parlate di operazione immobiliare e non parlate di riqualificazione per un quartiere che ha grandi problematiche sociali. Cioè, questo è un po' il senso. No, poi c'è anche un'altra domanda che balza all'occhio, anche ad esempio chi conosce un po' anche le vicende, ad esempio legate, appunto, ne parlavamo prima, al grosso nuovo quartiere nato sulla Bofalotta con tanto di enorme centro commerciale. Il problema è che questi che vengono costruiti sono spesso poi anche immobili di pregio, immobili che sul mercato valgono un sacco di soldi, immobili che in tempo di crisi non si capisce molto bene chi dovrebbe comprare. Infatti il paradosso è che poi questi immobili rimangono spesso vuoti e invenduti, proprio a far vedere che poi il vero guadagno è la finanziarizzazione sulle aree, non tanto neanche la vendita degli appartamenti. E poi, guarda caso, ci sono quegli stessi privati che vanno poi a piangere e a bussare alle porte dell'amministrazione chiedendo di comprare gli stessi appartamenti che rimangono invenduti, magari tramite la grande truffa del social housing. La domanda è: perché si continua a costruire, a fare colate di cemento in una città che non è in espansione, in una città che ha tantissimi spazi vuoti, in una città dell'invenduto? Beh, la risposta praticamente l'hai data: è la finanziarizzazione del territorio. La necessità dei proprietari di aree è quella di veder precipitare sulle loro aree milioni di euro di investimenti. Questo è proprio il senso: mettere a rendita i pochi spazi liberi rimasti nella città, ma soprattutto liberare spazi che liberi non sono. Cioè, a Torbella Monaca sta arrivando una nuova linea metropolitana, però non ci sono aree libere. Cioè, praticamente c'è la possibilità di fare un grande investimento immobiliare, ma non ci sono aree su cui investire. Ebbene, allora, quale miglior soluzione che tacciare quel quartiere come un quartiere in emergenza? Non so se ci avete fatto caso i numeri di articoli che si stanno susseguendo su Torbella Monaca, in cui si specifica, prima ancora di cosa è avvenuto, il quartiere in cui è avvenuto. Cioè, quando c'è stato l'ultimo fatto di sangue, purtroppo con la morte di quel padre col figlio bastonato uscendo dalla sua macchina per vari motivi che ancora non sono ben chiari, non si è scritto Pietralata, 2 punti, omicidio per strada. Si è scritto: c'è stato un omicidio a Roma. Quando accade qualcosa a Torbella Monaca, la prima scritta che si legge è Torbella Monaca. Cioè, si sta criminalizzando un intero quartiere. Un quartiere che ha gravi difficoltà, nessuno lo nega. però bisogna anche capire laddove anche i media stanno facendo un gioco per far sì che l'opinione pubblica si sposti in una direzione. Ecco, la sfortuna un po' è che su Torbella Monaca si sono accesi i riflettori anche di molte realtà dal basso che stanno lavorando a fianco con quello che è il comitato No Masterplan, un comitato che si è anche dotato di intelligenze che possono far saltare il gioco. Perché? Perché il comitato No Masterplan chiede una cosa sola, chiede che quel quartiere venga riqualificato con occupazione, con investimenti sui servizi sociali, con una maggior socialità quindi nel quartiere. C'è una cosa che pochi dicono: nel 2012 scadrà la convenzione del Comune di Roma con la Romeo, che è la società che deve fare la riqualificazione, la manutenzione ordinaria nelle palazzine. Manutenzione, ho detto, dovrebbe fare, perché praticamente non è mai stata fatta. Ebbene, i cittadini dicono una cosa: onde evitare di arricchire qualcuno per non fare qualche lavoro, noi siamo disposti a farcela noi la manutenzione, a creare noi delle società di manutenzione dei nostri stabili. Così facendo si darebbe occupazione all'interno di un quartiere il cui primo problema è proprio quella della disoccupazione. Ecco, questa sarebbe una riqualificazione, il resto è un'operazione immobiliare. Ok, poi l'altro fronte di cui si parli diffusamente nel libro è quello del litorale di Roma, sia Ostia sia Fiumicino col nuovo aeroporto. Se ci puoi spiegare un po' che cosa è previsto invece da queste parti. Sì, guarda, allora iniziamo col dire che i due capitoli su Fiumicino e Ostia devo ringraziare due persone che li hanno curati. Una è Ilenia Sina, che è una giornalista del Manifesto che si è occupata del capitolo di Fiumicino, e l'altra è Paola De Jesus, che è un urbanista di Ostia che fa sempre parte del comitato Labur. Noi abbiamo cercato di dare idea di quello che avverrà da Roma, a Roma dal mare alla città. C'è l'asse più redditizio dal punto di vista economico, è proprio quello che dal litorale porta a Roma tramite la Colombo, quindi Fiumicino, Ostia ed Eur. Lì è il cosiddetto secondo polo turistico, quello su cui si sta giocando tutte le sue forze il vice sindaco Cutrufo, su cui si sta giocando molto dell'iniziativa privata di Roma vicina all'iniziativa pubblica. La faccio molto semplice: Fiumicino, si sta parlando di raddoppio dell'aeroporto. Raddoppio dell'aeroporto che deve avvenire sui terreni della Maccarese S.p.A. La Maccarese S.p.A. è proprietaria di Benetton. Ad espropriare quei terreni dovrà essere Aeroporti di Roma e Alitalia. Poi ovviamente la parte espropriante è solo Aeroporti di Roma, ma poi chi volerà in quegli aeroporti Alitalia? Che guarda caso, ecco. Aeroporti di Roma, e dentro Alitalia c'è Benetton. Cioè Benetton si trova nella comoda posizione di espropriante ed espropriato. Quindi avrà soldi per dare i terreni e guadagnerà da quei terreni. Cioè c'è tutto un giro molto ben fatto, anche dobbiamo dire, che porterà a far girare un'enorme quantità di soldi fra i soliti noti. Per farla molto semplice, il senso del raddoppio dell'aeroporto di Fiumicino è molto semplice. Il senso è creare un centro commerciale, un enorme centro commerciale in cui possano fare acquisti turisti che neanche mettono piede a Roma. Cioè chi è in volo da Hong Kong a Madrid con scalo a Roma potrà spendere soldi a Roma senza neanche toccare il suolo di Roma, perché appunto avrà la possibilità di fare spese nel futuro aeroporto di Fiumicino. A Fiumicino poi c'è la speculazione e l'enorme business del porto, il porto di Fiumicino marca Caltagirone. Porto di lusso. Sì, un porto di lusso per yacht, e ad Ostia si riparte dal porto. Cioè praticamente Roma avrà due porti a distanza di poche decine di metri. A Fiumicino un porto, c'è il Tevere, e a Ostia un altro porto. Cioè questa è un'assurdità a livello mondiale. Cioè come se Marsiglia, oltre al suo porto, si dotasse di un altro porto a fianco. Cioè qualcosa di assurdo, ed è stato fatto soltanto con la, tra virgolette, scusa che Fiumicino è un altro comune. Quindi ogni comune può dotarsi del suo porto. Questa è la prima assurdità. Andando poi a vedere il capitolo, che poi è il progetto del Waterfront di Ostia, si vede tutta la follia di questa classe dirigente. Cioè i progetti in essere sono una passeggiata razionalista di mussoliniana memoria, c'è l'idea di fare delle isole al largo di Ostia, modello Dubai, c'è qualcuno che propone addirittura una pista da sci vista mare, cioè sciare in costume, c'è chi propone nuovi mega alberghi, nuove spa proprio sulla rotonda dove finisce la Cristoforo Colombo. Cioè c'è qualcosa che nulla ha a che vedere con una riqualificazione, come viene spacciata anche lì. Cioè Ostia anche lì ha gravi problemi, problemi che sono occupazione, perché è un'occupazione che ha vita solo per 3 mesi, i 3 mesi estivi. Bene, bisognerebbe fare dei progetti per portare lì vera occupazione e non per portare lì parchi tematici o cose simili, insomma. Questo qui è un po' il senso su come abbiamo analizzato Ostia. Un'analisi di Ostia poi che parte da un fatto molto grave, che è quello dello sgombero dei cittadini dell'idroscalo. Ebbene, lì c'è tutto un iter burocratico che noi abbiamo analizzato, che veramente grida vendetta per come è stato fatto quello sgombero. Ma anche lì cosa è successo? Si è fatto un'emergenza sociale, necessità di sgombrare quell'area per fare cosa? Per liberarla e far posto alle strutture ricettive del porto. Ora noi ci chiediamo se quelle baracche sono da abbattere, come è giusto che siano, perché non può vivere gente in una zona a rischio esondazione, in quella zona non possono neanche arrivare i turisti a vivere in albergo. Quella zona deve essere un parco, qualcosa che non è nulla, e alla gente che vive all'idroscalo deve essere data una casa sul territorio di Ostia. Oggi quella gente vive in un residence sulla Via Ardeatina. Cioè, immaginate cosa significa estirpare gente che da 30 anni vive a Ostia e portarli a vivere in un residence su Via Ardeatina. Noi, guarda, c'è stato prezioso in questa tua presentazione. Ricordiamo, il libro si chiama Le mani sulla città, da Veltroni ad Alemanno, storia di una capitale in vendita, Paolo Berdini e Daniele Nalbone. Ma all'interno anche capitoli a cura di altre persone, un viaggio dentro questi primi 3 anni, 2 anni e mezzo di amministrazione Alemanno, e appunto le speculazioni a cui vuole preparare nei prossimi due anni Roma. Io ti ringrazio, purtroppo non dovevamo averne modo di parlarne anche con qualcuno dei comitati che appunto di cui si parla, che hanno anche collaborato poi attivamente, da quello insomma che si legge, alla creazione di questa indagine, di questo libro. E purtroppo qualche problema tecnico non ce l'ha permesso. Io ti ringrazio, a risentirci presto. A presto. Ciao.